E rieccoci, sono le 11:26, continuiamo a parlare della situazione ambientale. Abbiamo parlato della giornata del 15 e approfondiamo invece su una questione che magari non è uscita sulle prime pagine dei giornali, ma che è altrettanto importante ed è forse la nota più negativa della giornata, perché c'è stato un caso di repressione anche nella giornata di venerdì 15. Due ragazzi in realtà, appartenenti al liceo Albertelli, sono stati fermati dalla polizia e successivamente denunciati per aver calato uno striscione dal ponte sospeso davanti al Colosseo. E uno di questi due ragazzi è minorenne e diciamo stanno adesso vedendo un attimo come reagire a queste accuse, per vedere se poi la denuncia sarà archiviata o meno. Noi abbiamo il piacere di avere una corrispondenza che ci ha inviato tramite audio e una sua testimonianza appunto dei fatti della giornata del 15 e un po' di come si stanno muovendo anche a riguardo. Ve la facciamo sentire subito, e questa è la testimonianza di Tommaso. Ciao, buongiorno, sono Tommaso da Albertelli, grazie mille per l'invito, per la possibilità che ci date di raccontare questa vicenda incredibile. Scusate, non posso venire, non possiamo fare una chiacchiera dal vivo più articolata, ma avendo scuola vi mando direttamente questo contributo audio. Allora, il 15 marzo, venerdì, giorno dello sciopero mondiale per il clima, con la mia scuola Albertelli ci stavamo recando al concentramento a Roma, perlomeno di varie scuole, era alla metro Colosseo, più precisamente l'uscita che dà sulla piazza vicino al ponte di Annibaldi, che per chi è di Roma la conosce è uno dei ponti più famosi, soprattutto chi fa parte di gruppi politici, perché è il ponte che dietro dà sul Colosseo, dove spesso i militanti dei differenti, anche i gruppi politici, si ritrovano per mettere striscioni. Ecco, a quel punto eravamo là con OSA, che è il gruppo di cui faccio parte, il gruppo politico, per mettere uno striscione e per rilanciare il corteo del 23. Uno striscione che era inevitabilmente anche conflittuale con parti attive della piazza, tra le parti più attive, diciamo, anche perché si chiamava no alle grandi opere inquinanti volute anche dal PD, che con Zingaretti è stato il partito politico che più di tutti ha salutato la piazza del 15, e contro CGIL, che in contemporanea a quella piazza degli studenti aveva uno sciopero categoriale e degli edili per il Selatab insieme a CISL e UIL. Bene, a quel punto abbiamo messo quello piccolissima striscione, perché era veramente di taglia piccola e che probabilmente avremmo pure rimosso noi, e ci arrivavamo appunto fuori per fare delle foto, ma appostati sul ponte dall'altra parte dove uscivamo, dato che una parte a destra l'uscita era bloccata, serrata, diciamo, dal concentramento, l'altra era libera, là era appostata una macchina dei ROS, dei carabinieri in borghese, che ci hanno fermato, ci hanno identificato. E a quel punto ci hanno fatti salire in macchina e ci hanno portati in questura. Ecco, oltre alle frasi ridicole come ci mettiamo 2 minuti ad arrivare, abbiamo messo 15 minuti, 20 minuti, e quando siamo arrivati in questura, in caserma, scusate, 5 minuti finiamo le pratiche, ci hanno messo 2 ore, e ovviamente tutte le domande più o meno, diciamo, allietanti che ci hanno fatto là, che, diciamo, non preferirei dirle, però c'erano riferimenti. Singoli personaggi, io ad esempio stavo con un carabiniere che mi aveva già identificato al corteo del 22 febbraio. E a quel punto, dopo che hanno chiamato i miei genitori è arrivata appunto una notizia, oltre a dirci, vabbè, se questo è stato un striscione, è arrivato, sono arrivate le denunce per me e l'altra ragazza. Le denunce per affisso in abusiva. Tutto ciò è incredibile perché in un corteo autorizzato, nel ponte più famoso di Roma, per lasciare le striscioni in un corteo che era effettivamente autorizzato, è arrivata una denuncia. Una denuncia per aver messo un striscione con delle stringhe, diciamo, le classiche stringhe che poi si possono levare facilmente. Ebbene, quelle l'hanno considerate, diciamo, pericolose, l'hanno considerate una affissione permanente che poi è durata di 15 secondi, dopo che noi siamo usciti dal ponte, siamo andati via dal ponte, la polizia era già là ferma, ci hanno chiesto i documenti, ci hanno fatto rendere e toglierlo, quindi lo striscione è durato 20 secondi massimo, ci hanno denunciato. Ecco, questo è incredibile, questo mostra il livello oggi di repressione, di intimidazione da parte di alcuni apparati dello Stato, e con anche un ministro dell'interno che, come quello precedente, Minniti, intensifica questi attacchi sia a tutto il mondo dei lavoratori e di chi lotta, che è conflittuale veramente con questo sistema, sia a quello degli studenti, perché questo è il mio caso. Io ho 14 anni, una denuncia per una roba del genere non sarei mai aspettata. Ma pensiamo quando pochi mesi fa, 74 al Virgilio, sono stati occupati, sono stati denunciati per aver occupato. Ecco, diciamo, tutto questo è incredibile e noi vogliamo denunciare, abbiamo già denunciato questa cosa con tutti i compagni del Movimento Romano, non solo, quindi ricevendo anche grande solidarietà e anche spazi di intervento come questo, a cui siamo veramente grati. E quindi ora ci stiamo organizzando, abbiamo già organizzato dei flash mob all'Albertelli, la scuola dove vado io con dei volantinaggi, degli striscioni. Ora ci organizzeremo, ci stiamo organizzando in tutte le scuole di Roma per fare questi brevi video in cui si mostrerà la solidarietà. E quello più importante da capire, secondo me, è che qua non conta davvero il gruppo politico, perché poi deve essere onestamente uno di noi appartenente a vari gruppi in quel momento. Qua conta che c'è uno Stato sempre più repressivo a colpire chi è veramente conflittuale con questo stato di cose attuali. Quindi niente, questa era la mia storia e grazie mille per la possibilità di intervento e grazie a tutti voi che mi avete ascoltato. Ciao. E questa è la corrispondenza dalla ragazza dell'Albertelli, appunto, a cui mandiamo il nostro supporto e la nostra solidarietà riguardo a questo ennesimo atto di repressione anche giovanile. Appunto, lui citava l'esperienza di questo autunno con lo sgombero del Virgilio e le denunce agli occupanti della scuola di Via Giulia. Sono le 11:35, noi ci lasciamo ancora con un po' di musica, ma voi restate sempre con noi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Se pensa clandestina torna fra poco.